Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Marco Missiroli, autore di Il senso dell'elefante, pubblicato da Guanda. Abbiamo parlato spesso di Missiroli nel Cacciatore di Libri perché l'abbiamo un po' seguito dall'inizio della sua carriera letteraria, quando aveva vinto nel 2006 l'opera prima del Campiello con Senza coda, poi Il buio addosso, Bianco, e adesso questo libro, Il senso dell'elefante, che è candidato ancora una volta al Campiello, però diciamo nella sezione senior del Campiello. Io quando ho letto questo libro così in un fine settimana, appena l'ho chiuso, ho pensato una grande emozione, come sempre mi procurano i libri di Missiroli, perché Missiroli è uno scrittore che ha la capacità di scavare l'anima dei personaggi, ha la capacità di parlare del dolore senza mettere in mostra il dolore, e quindi in qualche modo lo fa percepire, cioè si crea un'empatia fra lo scrittore e il libro che è veramente particolare. Marco, in questo libro tu hai scelto come protagonista Pietro, che è un portinaio di Milano e anche un ex sacerdote. Ce lo vuoi descrivere un po' e spiegarci perché hai scelto di rendere protagonista di questo romanzo questo personaggio? Perché prima di trasferirmi, anzi durante il trasferimento da Rimini a Milano, quando sono entrato nella mia prima casa, c'era un portinaio che mi ha detto se gli potevo dare le copie delle chiavi del mio appartamento. E io che abitavo a Rimini e poi a Bologna, dove i portinai non sono così frequenti, mi sono chiesto perché le voleva, e lui mi ha spiegato: nel caso di emergenza. Allora lì ho capito che se io avessi avuto quelle chiavi, quella copia delle chiavi, probabilmente sarei entrato, non tanto per ruberia, ma per la vita degli altri, per capire come vivevano gli oggetti, per quello che fanno, curiosità non solo, anche proprio per empatia. Il mio libro nasce da qui, da quest'idea, dal fatto che a volte uno può avere le chiavi della vita di un'altra persona, può entrare nel suo appartamento e può vivere quella vita, non per pettegolume, ma per aiutare, per proteggere, e questo è il senso dell'elefante. Quale migliore personaggio di uno che non sa fare assolutamente il portinaio, ma ci prova, viene catapultato da Rimini a Milano dopo essersi spretato, ed entra in questo condominio dove apparentemente entra per fare il portinaio, in verità entra con un movente molto diverso, che è il primo grande segreto del romanzo. A proposito di portinai, mi è venuto ovviamente in mente L'eleganza del riccio, che è stato un po', insomma, il best seller che ha portato, come dire, in voga il personaggio della portinaia, però insomma non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro questi due personaggi. Tu però ci hai pensato all'eleganza del riccio? Ci ho pensato, L'eleganza del riccio, Il senso dell'elefante, per cui c'è sempre c'è sempre un animale. C'è sempre uno zoo di torno, e c'è anche un condominio. Il condominio viene usato un po' anche perché è un po' una furberia per un narratore. Puoi condensare lì dentro tutte le varie vite che ti interessano. Ora, o lo fai furbo e allora si vede, e il lettore, che è super intelligente, molto più intelligente di te scrittore, lo vede e ti abbandona. O lo fai con un senso di realtà. Tutte le storie del senso dell'elefante sono vere e il condominio è vero. Per cui a me per una volta è capitato prima la verità di quello che ho narrato. Ecco, questo mi ha stupito, perché in questo romanzo, e poi andiamo più ovviamente all'interno della trama, c'è questo condominio dove il portinaio insomma è amico di tutti, ma anche i condomini fra loro sono amici, si vogliono bene, e l'ho trovato un po' surreale. Adesso tu mi racconti che invece è vero. Quindi ci può essere questo senso di fratellanza in un condominio milanese, perché io ricordo quando sono arrivata a Milano da Bari, sono rimasta un po' stranita del fatto che nessuno mi salutasse nel mio palazzo, invece ero abituata a conoscere tutti, a conoscere le case di tutti. Io nel mio palazzo a Milano non conosco le case di nessuno. Anch'io in questo qui, nel vecchio stranamente le conoscevo, ma c'era un motivo, era un incrocio di anime sole. C'è una specie di legge che dice che quando gli uomini si incontrano e sono tutti uomini soli, c'è la solidarietà perfetta. Per cui molti credono che, almeno in quell'occasione lì, c'era tutto il secondo piano che era di tre famiglie, c'era un omosessuale singolo ebreo, c'era una madre con un figlio ritardato e poi c'era una famiglia normale, apparentemente, con in verità sotto un segreto incredibile. Queste tre famiglie, e poi c'ero io, che ero singolo, ero solo. Eravamo in un periodo, io mi ero appena lasciato dalla mia fidanzata storica, per cui eravamo tutte e quattro con una solitudine all'interno, e quindi ci siamo fatti famiglia. Questo mi ricorda anche, per esempio, un altro romanzo, adesso non per paragonare il tuo ad altri, però c'è questo scrittore egiziano, Ala Laswani, esatto, che aveva pubblicato Palazzo Yacoubian per Feltrinelli, e il condominio è una certo. fonte di ispirazione meravigliosa per gli scrittori, perché si può creare un romanzo corale seguendo anche la vita di un solo protagonista, come fai tu. Assolutamente, e la storia di Pietro, che da ex prete si trasferisce a Milano per fare il portinaio, è una storia vera. Per cui anche i tre segreti di questo libro si basano su verità. E in un certo senso mi ha imbarazzato raccontare il libro e sentirmi dire ma ne hai avuta di fantasia. In verità, sapendo che era tutto reale, ho pensato che molto spesso l'esistenza è molto più... sì, fantasia della narrazione, ecco. Allora, parliamo un pochino della trama di questo libro senza andare troppo a fondo, perché come dicevamo ci sono dei segreti. Sì. C'è questo portinaio Pietro, che ha appunto rapporti di cura e di amicizia. Lui si preoccupa, si prende cura di molti dei suoi condomini, e ci sono alcuni personaggi un po' particolari, prima li hai accennati. Allora c'è l'avvocato gay, poi c'è il medico e poi c'è una donna che ha un figlio disabile. Che rapporti si intrecciano fra tutti questi personaggi? Ognuno di loro ha un buco. L'avvocato gay ha perso il compagno ventennale da poco, la madre con il figlio ritardato, che è ritardato ma che ha una sensibilità superiore agli altri, per cui ritardato tanto non è, il ribaltamento è sempre molto, molto dietro la porta. Ha un buco, che è quello del marito, e poi che non c'è più, e poi c'è la famiglia, che apparentemente è una famiglia bella, perché c'è questo medico di 35 anni, la moglie appena sposata e questa bambina piccola e molto dolce, che nascondono in verità l'inferno, un inferno quotidiano. Ed è un insieme di, io lo chiamo lo stucco, cioè riempi buchi. Attraverso la solidarietà tra uomini soli si riempiono buchi costantemente, fino a quando il buco non diventa strutturale per tutti. Quando tutte le tre famiglie e il portinaio si accorgono che c'è un buco che li accomuna, allora lì non ci puoi più far niente e devi affrontarlo. E lì succede il senso dell'elefante. È il senso dell'elefante, che possiamo un po' spiegare, sì, il significato di questo titolo. L'elefante è uno dei pochi mammiferi che nel branco, che è di origine matriarcale, ma dove i padri hanno una grande importanza, protegge i figli al di là del sangue, al di là dei legami di sangue. Per cui un padre e una madre proteggono anche gli altri piccoli come se fossero i loro. Se muore un elefantino, tutti lo vegliano. Se un elefantino rischia il pericolo, tutti vanno. E non è una cosa non è una cosa scontata, da loro è legge. Tra gli umani no, non è assolutamente legge. Anzi, molto spesso i legami di sangue sono gli unici ufficiali riconosciuti. Per alcuni uomini non è così. Per alcuni uomini, insegnanti, preti, ex preti, medici, anche persone sole, proteggere i figli degli altri è devozione, è missione. Io lo trovo, tra l'altro, un titolo bellissimo, una frase che si ritrova anche nel romanzo. Questo è un romanzo che parla molto del rapporto fra padre e figlio, ma secondo me parla soprattutto del concetto del prendersi cura, come dicevamo prima, del portinaio che si prende cura degli altri, di un padre che vorrebbe prendersi cura di un figlio e vorrebbe proteggerlo. A un certo punto nella bandella c'è scritto, c'è una terribile domanda in questo romanzo: a che cosa siamo disposti a rinunciare per proteggere i nostri legami? Secondo te a che cosa siamo disposti a rinunciare? E aggiungerei proteggere i nostri legami senza essere visti, perché molte volte la protezione perfetta è quella in cui non si chiede niente indietro, per cui siamo disposti a rinunciare probabilmente a noi stessi in alcuni casi. Madre che tengono figli con dei problemi sono disposti a rinunciare a loro stesse, perché glielo chiedono, perché lo fa lui. E non è una visione cattolica, è una visione umana, viscerale, per cui è di placenta, cambia la questione. Siamo disposti a rinunciare a noi stessi e probabilmente a una visione del mondo più ampia, più serena, che è una grande rinuncia, anche se apparentemente doverosa. E lo fa in tanti piccoli modi. Il portinaio entra nell'appartamento di nascosto del dottore, prova le sue pantofole, si siede dove si siede lui nel divano, ascolta gli odori, chiude il latte che non è ben chiuso nel frigorifero e ruba un oggetto e poi un altro, non per ruberia, ma perché in quell'oggetto c'è incastrata l'anima della persona. Esatto. Della L'oggetto persona è la conservazione, la Madeleine di tutti i nostri pensieri. E poi scopriremo ovviamente perché il portinaio è molto interessato al medico. Secondo te, prima si parlava appunto del rapporto di cura, si può essere padri o madri si può avere il senso di paternità o maternità anche senza avere figli. Assolutamente, ed sarebbe giusto che fosse riconosciuto, che ci fosse una possibilità di apertura verso queste persone. E non sto parlando delle adozioni, perché anche delle piccole cose. Io mi ricordo che in questo appartamento, quando sono andato lì in questo condominio al secondo piano, le persone mi venivano a chiedere come stavo, perché avevano notato che c'era qualcosa che non andava, ovviamente, non stavo benissimo, insomma, non ero all'umore massimo. E per cui, voglio dire, quello era il senso dell'elefante. Mi ricordo una volta mi sono trovato per Pasqua questo uovo gigantesco che la signora mi aveva lasciato davanti alla porta, con un biglietto con scritto «Magna e sii felice». E me lo sono magnato tutto, veramente. E quello è il senso dell'elefante. Sì, quello è il gesto di cura che ti fa proprio cambiare prospettiva. Noi siamo stati un po' vaghi sulla trama, ma c'è un perché, appunto, non vogliamo togliervi il gusto. Io veramente ve lo consiglio col cuore questo romanzo, perché mi ha, come vi dicevo prima, mi ha molto emozionato il senso dell'elefante. Marco, un po' in tutti i tuoi libri c'è sempre la presenza di una mancanza, di un difetto, per esempio il buio addosso c'era la ragazza zoppa, in bianco c'era la segregazione razziale, e c'è sempre un dolore che spesso non ha soluzione, insomma non c'è la resilienza, quella capacità di appunto superare il dolore e girarlo in positivo. Come mai ti concentri sempre su questo aspetto? Perché credo che la letteratura non debba più avere paura, non debba avere paura di andare anche su questi temi qua e di andare a fondo, per cui il lettore deve sentirsi capito, ma anche incoraggiato a venirne fuori semplicemente con il racconto. Io non do mai giudizi nei libri, racconto i fatti, basta. E le emozioni le faccio, cerco di farle arrivare da sole al lettore, senza indurle. Il contrario della letteratura rosa o melodrammatica che si cerca di fare. E credo che bisogna avere questo coraggio. Come mai lo faccio? Credo sicuramente ci sia un po' di percezione ereditaria. Anche quando ero piccolo guardavo sempre quelli un pochino più umiliati, offesi. È una questione di indole. E poi perché i libri devono anche un attimo arrivare in fondo. Non devono consolare necessariamente. No, possono consolare nell'empatia, cioè nel farti capire che il mondo è così, che ha quei tratti lì. Per cui se tu, quando stai male, non sei l'unico, voglio dire. E poi è un libro che, secondo me, è reattivo in alcuni contesti, per cui quando lo molli ti fa lavorare di testa, dopo un po' ci ripensi. E questo credo sia la cosa migliore che posso fare io che scrivo, insomma. Grazie a Marco Missiroli, autore di Il senso dell'elefante, pubblicato da Guanda, uno dei 5 finalisti del Campiello, che lo ricordiamo sarà consegnato a Venezia il 1° settembre. Un romanzo così che vi chiedo di leggere un po' a scatola chiusa, non vi abbiamo raccontato tanto della trama. Magari poi scrivetemi al cacciatore di libri @radio24.it e ditemi se anche voi avete provato la stessa emozione che ho provato io leggendolo. A proposito di Campiello, vi ricordo anche gli altri candidati, naturalmente, del premio, che sono Carmine Abate con La collina del vento, Mondadori, Marcello Fois, Nel tempo di mezzo e Einaudi, Francesca Melandri, più alto del mare, Rizzoli, e Giovanni Montanaro con Tutti i colori del mondo, Feltrinelli. E vi ricordo anche che a partire da venerdì 7 settembre, ogni venerdì in allegato al Sole 24 ore, ci sarà un romanzo che ha vinto nel corso del tempo il premio Campiello, per esempio La tregua di Primo Levi, Sostiene Pereira di Tabucchi, Nati due volte di Pontigia, ogni volume venduto a 9,90. Grazie per l'ascolto. Trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.